Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci e bentornati alla nostra finestra sul cortile. Ricordate il film Full Monty? Squattrinati organizzati era il titolo italiano. L'ha girato 12 anni fa il regista inglese Peter Cattaneo. Racconta la storia di un gruppo di disoccupati di Sheffield in Gran Bretagna che per sbarcare il lunario si improvvisano spogliarellisti e il loro spettacolo manda in visibilio il pubblico, soprattutto femminile. Un modo ironico e creativo di affrontare un tema tutt'altro che lieve e qualche volta, anzi spesso, purtroppo drammatico, quello della disoccupazione. Non si può scherzare sulla disoccupazione, che in Italia riguarda ormai oltre 2 milioni di persone, 8 italiani su 100, e tra i giovani la percentuale sale al 26%, un giovane su 4, ed è in continua crescita. Ma di problemi del lavoro parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, soprattutto a partire da un anniversario. Il sussidio di disoccupazione inglese compie un secolo, essendo stato istituito proprio nel febbraio del 1910. Ma parleremo anche di altri temi, per esempio del vezzo che hanno gli indiani, soprattutto i VIP di Bollywood, gli attori e le attrici, di sbiancarsi il volto e di scolorire e di farsi biondi i capelli. Ma ora ascoltiamo quali sono i temi di questa puntata nel nostro sommario. India. Gli uomini preferiscono le bionde e la pelle bianca, anche a Bollywood. America. Le donne ci mettono più tempo a capire le battute, ma si divertono di più. Germania. La Gioconda non era Mona Lisa, lo svela l'italiano Roberto Zapperi in un libro uscito in Germania. Inghilterra. Il sussidio di disoccupazione compie 100 anni, speriamo di averne meno bisogno in futuro. Spagna. Svegliati Europa. Il sociologo Edgar Morin sostiene che il vecchio continente è in letargo e incapace di pensare al futuro. Sulle note di Black or White, cantata da Michael Jackson, parliamo di un tema che viene affrontato sul settimanale Outlook India, ed è il problema del colore della pelle, la moda che si è diffusa soprattutto tra i VIP, tra gli attori e le attrici di Bollywood in India, di schiarirsi la pelle. E l'articolo di Shefali Vadusev si domanda come mai ci sia questa abitudine e come mai questi signori, questi attori, queste attrici non calcolino i rischi nell'uso soprattutto di queste creme, di queste lozioni per i capelli e di tutti questi agenti chimici schiarenti che possono avere degli effetti collaterali molto pericolosi. Il fatto è che si è diffusa in India la convinzione, soprattutto diffusa con la pubblicità e alcuni serial televisivi, che l'essere chiari di carnagione e biondi rende più felici, aiuta a trovare un buon marito, un lavoro migliore, più fiducia in se stessi, magari dei premi di bellezza e così in generale un maggiore successo nella vita. Il problema, scrive Shefali Vadusev su Outlook India, è che molto spesso questo tipo di prodotti che vengono diffusi dal delle società, delle industrie dei cosmetici, contengono degli agenti chimici che possono, per esempio mercurio ed altre sostanze, che possono avere dei rischi per la salute. E poi ci sono delle medicine, viceversa, che possono servire per combattere il diabete o l'ipertensione o l'asma, che hanno un effetto scurente. Insomma, la domanda, per usare un gioco di parole inglese, è: is it fair to be fair? Cioè, è giusto essere pallidi? Ecco, su questo tema abbiamo al telefono un esperto a cui diamo il benvenuto, il professor Duccio Canestrini. Grazie di essere con noi alla Finestra sul Cortile. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il professor Canestrini, antropologo, ha studiato proprio l'antropologia del corpo, i significati, diciamo così, simbolici e comunicativi anche del colore della pelle. Lei conosceva questo fenomeno anche perché lei ha viaggiato a lungo anche in India e in altri paesi. Sì, molte volte sono stato in India, l'ultima volta è stata proprio quest'inverno, ho passato un mese lì con degli amici sia di pelle nera sia di pelle bianca, e abbiamo anche parlato di questa tematica, tra l'altro facendoci anche delle risate, perché poi gli indiani sanno anche ridere, oltre che, diciamo, invidiare soltanto coloro che hanno la pelle bianca. Sicuramente questo fenomeno è antichissimo, nel senso che qualcuno lo fa risalire a dei modelli anche risalenti al periodo coloniale, perché i coloni inglesi avevano la pelle bianca e quindi certo, prestigio e potere. Cercavano di assomigliare ai loro padroni. Sì, c'è questa dimensione, ma il fenomeno risale a molto prima, perché la più antica letteratura indiana ci presenta delle pastorelle con la pelle chiara e le gote rosse, e la vera pelle chiara in India porta automaticamente ad appartenere a caste alte. Sappiamo che in India esistono ancora questo sistema, una stratificazione di caste, complicatissimo, però delle caste, e quindi sì, esiste il problema anche per la ricaduta sulla salute delle persone che ha, e lo vedo difficilmente estirpabile, insomma. Mentre in Occidente le signore, e ormai anche gli uomini, tengono tanto alla bronzatura, tanto che si fanno la lampada oppure si danno il fondotinta, ecco, in India avviene il contrario. Ma come mai non siamo mai contenti della nostra carnagione naturale? Perché questo rifiuto, poi, insomma, di quella che è in qualche modo anche la nostra identità etnica, insomma, quello che ci fa diversi. Ma in Oriente è facile rispondere, perché gli Ari, il popolo che poi diventano gli Ariani, in una pseudomitologia, no, di stampo nazista, ma gli Ari, il popolo delle steppe che invasero l'India 1500 anni prima di Cristo, erano bianchi di carnagione e soppiantarono una popolazione locale che erano i Dravidi, che avevano la pelle scura. Quindi lì è un facile esempio di scontro, se vogliamo, tra civiltà o di certo, mancato. E la connotazione della nostra epidermide a seconda del grado melaninico, no? Se sia più chiara, più scura, beh, questo ha fluttuazioni storiche, perché pensiamo per esempio al sangue blu dei regnanti spagnoli, no? Sì. Quando si diceva sangue blu era perché i regnanti spagnoli e i nobili in generale, avendo la pelle pallida, si mostravano le vene, certo, no? Quindi il pallore era nobiliare e aristocratico anche in Europa, non soltanto fra i bramini indiani. E fino a un certo punto essere pallidi era di grande prestigio anche da noi in Italia, perché voleva dire non esporsi ai lavori all'aperto. Più umili, certo, infatti. Ecco, la svolta avviene dopo, no? Sì. Ci sono degli storici che hanno anche parlato, intorno al 1920, con il boom delle vacanze avviene un rovesciamento dei valori simbolici, proprio di antropologia del corpo, per cui abbronzarsi diventa prestigioso, perché significa avere il tempo per poter prendere il sole. Ecco, senta, la trasmissione è stata introdotta dalla canzone di Michael Jackson, e sì, questa grande rock star scomparsa era in qualche modo ossessionato, oltre che dal suo aspetto fisico, proprio dal colore della sua pelle, no? E come nasceva questa sua ossessione? Ma perché poi questo modello di gerarchia delle colorazioni della pelle, che è stato anche codificato, badi bene, no? Perché intorno al 1900 c'era un antropologo, si chiamava Felix von Luschan, che classificò in una scala cromatica le pelli delle persone del mondo in 36 vetrini opachi, e poi noi l'abbiamo portato un po' in tutto il mondo. Attualmente, in questi giorni si è parlato tanto di Haiti, gli haitiani soffrono moltissimo di questo pregiudizio da parte dei dominicani, cioè con i vicini, no, abitano sulla stessa isola, perché gli haitiani hanno la pelle molto scura, sono di netta derivazione africana, e i dominicani amano definirsi ispanici. Poi magari molti di loro sono neri, tra virgolette, però l'abbiamo esportata un po' in tutto il mondo, no? Una parte di afroamericani, di cui Michael Jackson non faceva parte, era ben fiero di avere la pelle nera. E certo. Altri hanno subito questo stereotipo. Insomma. Ecco, l'importante è, insomma, anche in Italia si cerchi di combattere questo pregiudizio che abbiamo istintivo per la differenza del colore della pelle, che purtroppo abbiamo rivisto anche negli stadi recentemente. Ecco, noi ringraziamo il professor Canestrini, a presto e buona domenica. Buongiorno a lei. Spesso si sente dire che le donne non ridono alle battute o non capiscono le barzellette. In realtà, come dimostra uno studio di un gruppo di ricercatori di Stanford, le donne hanno un senso dell'umorismo diverso e forse più sottile. In questa ricerca, che ha messo a confronto 10 donne e 10 uomini, facendogli vedere dei cartoni animati, sono molto più attente al linguaggio e ai giochi di parole. Gli uomini, non tutti, però, ridono più facilmente per qualsiasi cosa, specialmente quando parlano di donne. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano. La nostra rubrica sugli italiani da esportazione ci porta questa settimana in Germania. E parliamo di uno storico dell'arte, Roberto Zapperi, che ha appena pubblicato un libro, Abschied von Mona Lisa, Congedo da Mona Lisa, presso la casa editrice Beck. È un libro di cui si discute in questo momento in Germania, perché parla per l'appunto del celebre quadro di Leonardo. Secondo Zapperi, non si tratta di Mona Lisa, di Lisa del Giocondo, la celebre dama ritratta nel quadro esposto al Louvre sarebbe in realtà una amante di Giuliano de Medici, tale Pacifica di Giovanni Antonio Brandano. Quindi dimenticatevi Mona Lisa. La finestra sul cortile. La voce inconfondibile di Donna Summer in Hot Stuff ci fa venire in mente la celebre scena del film Full Monty, in cui il gruppo di amici disoccupati si mette in fila per il sussidio di disoccupazione. Intanto prova le mosse dello spettacolo di striptease maschile che sta preparando proprio per sbarcare il lunario. E sulla coda per i sussidi di disoccupazione c'è un articolo del Times firmato da Mike Pattenden che ci ricorda un anniversario che finora è passato un po' sotto silenzio e che purtroppo è di grande attualità vista la situazione economica non brillante che stiamo vivendo in questi tempi in Europa, e cioè il centenario del sussidio di disoccupazione, che fu appunto istituito nel febbraio del 1910 dal governo britannico. Si aprirono proprio in quel mese di 100 anni fa i primi 62 uffici di collocamento, si chiamavano labor exchanges, dove appunto i disoccupati potevano cercare di trovare un impiego. Tra quelli che hanno passato l'esperienza della disoccupazione in Gran Gran Bretagna ha lo stesso ministro del lavoro in carica, Jim Knight, che ne parla proprio con Pattenden sul Times e dice che ricorda quell'esperienza terribile di quando lui era giovane negli anni 80, in cui doveva andare a mettersi in coda in mezzo a tutti gli altri lavoratori giovani, insomma in cerca di occupazione, davanti a degli sportelli con degli impiegati dietro ai vetri, anzi dietro al perspex, dice lui, gli dovevano corrispondere, insomma, l'assegno di disoccupazione. A quell'epoca c'erano 3 milioni di persone alla ricerca di un lavoro. E mentre Knight era in coda a Cambridge, c'era un attore attualmente famoso in Gran Bretagna, Clive Owen, che invece faceva la coda in mezzo ai lavoratori dell'industria dell'auto a Coventry. Adesso, dice il Times, la Gran Bretagna sembra che si stia riprendendo dalla recessione. Nell'ultimo trimestre c'è stato uno 0,1% di guadagno del PIL. Però ancora i disoccupati sono nell'ultimo anno sono triplicati. Ecco, certamente la realtà degli sportelli dedicati ai disoccupati e del collocamento è cambiata, le stesse strutture di questi uffici, dice l'articolo del Times, è cambiata, però sta di fatto, insomma, che il sistema britannico, insomma, è forse il più collaudato ed è un esempio, dovrebbe essere un esempio anche per paesi come l'Italia, che su questo terreno sono molto più indietro. E a questo proposito abbiamo un ospite che su questo tema si batte da molti anni, ed è Pietro Ichino, che salutiamo e ringraziamo di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. E buona domenica. Il professor Ichino è giurista del lavoro, senatore del PD fin dall'82, in un suo libro famoso, Il collocamento impossibile, diceva che appunto scriveva che il sistema italiano non funzionava, non garantiva l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Anzi, lo ostacolava. Ecco, in qualche maniera lo stai. Era il monopolio statale che non funzionava. Il monopolio vero? Statale e la regola del collocamento numerico, per cui era vietato scegliersi a vicenda fra lavoratore e impresa. Bisognava che l'abbinamento venisse fatto dall'ufficio. In realtà gli uffici non erano assolutamente in grado di farlo neanche nell'epoca della grande impresa fordista. Ecco, ma in che senso l'Inghilterra è un modello per noi? Perché il sussidio di disoccupazione è universale, insomma, no? La Gran Bretagna e Svezia, perché sono, diciamo, i modelli sono più d'uno, ma Gran Bretagna in particolare ha compiuto una riforma di straordinario rilievo a partire dal 73 con il libro bianco intitolato People and Jobs, che ha impostato una riforma profondissima di tutto il sistema pubblico di servizi al mercato del lavoro, voltando pagina rispetto ai vecchi labor exchanges che lei ha citato prima, che erano per lo più collocati in zone periferiche, in vie piccole vie nascoste della periferia, per sottrarre queste tristi code di disoccupati alla vista del pubblico. Certo. e per evitare che potessero essere di disturbo anche al traffico, perché erano spesso anche degli raggruppamenti agglomeranti di persone numerose e dolenti in attesa di raggiungere lo sportello. E la riforma del Employment Act del 73 voltò pagina rispetto a questa situazione creando la rete dei job center, sì. Tutti situati nelle vie centrali, nelle vie di maggior traffico, luminosi, con un design moderno, accattivante, molto customer oriented, senza nessun vincolo legale e anzi con una totale sburocratizzazione della funzione del collocamento, dell'orientamento professionale e con un meccanismo straordinario di rilevazione della produttività di ciascun job center. Il direttore era totalmente libero sul come agire, come spendere il suo budget, ma venivano poi controllati i risultati dividendo la spesa per i cosiddetti successful placings, cioè i collocamenti andati a buon fine che avevano superato il periodo di prova, e in base a quello il job center veniva rifinanziato, o se era inefficiente rischiava anche di essere chiuso e allora il dirigente veniva licenziato e tutti i dipendenti venivano trasferiti in altri job center circonvicini che funzionavano meglio. Ecco, questa è stata la prima riforma, poi c'è stato il passaggio successivo con la Thatcher, ma ecco, io vorrei dire, noi in Italia siamo indietro di due generazioni rispetto a queste riforme, noi non abbiamo neanche fatto la prima. Infatti, ecco, da noi diciamo non vediamo le code, le file dei disoccupati, in compenso sta esplodendo spesso in forme drammatiche, pensiamo a quel operaio che nel Bergamasco si è dato fuoco, pensiamo al fatto che la disoccupazione è concentrata soprattutto nelle fasce giovanili, c'è questa spaccatura insomma del mercato del lavoro tra i garantiti e non. Ecco, che cosa bisognerebbe fare diciamo nell'immediato, almeno una misura per rendere più efficace questi gli ammortizzatori sociali in Italia? Dunque, noi abbiamo due gravi, gravissimi problemi. Uno è questo che lei ha menzionato adesso, cioè il dualismo del mercato del lavoro, del tessuto produttivo, che vede il diritto del lavoro che si applica soltanto a una metà, e è la metà delle generazioni più anziane. E invece ai giovani il diritto del lavoro ormai non si applica più, quello che insegniamo nelle università loro non lo vedono neanche di lontano, certo. È il mercato del lavoro dove si fa aprire la partita IVA ai redattori, facchini, addetti al magazzino, autisti, segretarie, e ormai non c'è più una casa di cura privata che assuma un medico o un'infermiera in modo regolare. Ecco, questo è il primo problema, il dualismo tra protetti e qualche volta iperprotetti da una parte e i non protetti o pochissimo protetti dall'altra. Quindi c'è il problema di riscrivere un diritto del lavoro per i nuovi, senza togliere niente ai vecchi, lasciamo pure quel che hanno, ma riscriviamo. Come conciliare, esatto, garanzie e flessibilità, insomma, no? Insieme. Che sia davvero applicabile a tutti, realisticamente applicabile a tutti, e lì io credo che il modello realisticamente perseguibile è proprio quello del Nord Europa, cioè tutti a tempo indeterminato, ma nessuno inamovibile e tutti fortemente assistiti e sorretti nel momento in cui devono passare dal mercato del lavoro per ritrovare un nuovo posto di lavoro. E qui è l'altra gravissima gravissimo difetto del nostro sistema, cioè la incapacità totale di affrontare il problema, la crisi occupazionale, la necessità di ricollocare il lavoratore, cosa che accade sempre più spesso nel tessuto produttivo attuale, che è molto effervescente, ha dei ritmi di obsolescenza delle tecniche applicate molto più rapidi che in passato, il turnover delle imprese è molto più accelerato rispetto al passato, ma il nostro sistema non è capace di affrontare il problema, prendere il toro per le corna, ecco, e bene, cerca di nascondere il problema, nascondere il sudicio sotto il tappeto con la cassa integrazione. Bene, grazie al professor Ichino, a presto e buona domenica. Buona domenica a tutti. L'Europa è una bella addormentata, così dice il sociologo francese Edgar Morin, 88 anni, parlando al País, al quotidiano spagnolo El País, prima della sua partenza per il Brasile. Dice: le paesi dell'America Latina sono molto più vitali dell'Europa, La gente è molto più aperta, addirittura non identifica i propri problemi. Invece l'Europa è tutta ripiegata su se stessa, è in uno stato di paralisi e di letargo. C'è una grande ansia per il futuro e, dato che non c'è altro futuro oltre il presente è vissuto come una minaccia e allora non c'è altra scelta che aggrapparsi al passato, all'identità religiosa, all'idea che l'Europa appartiene alla cristianità. Ma, avverte Edgar Morin, la democrazia non è un'invenzione cristiana, ci viene dai greci. La scienza e la tecnologia non sono cristiane. L'Europa moderna non è cristiana e il secolarismo esiste anche in altre civiltà. E per oggi è tutto, grazie a Vittoria Mussini in redazione, Filippo Aureggi in regia, Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Buona domenica a tutti.